Certo. C'erano le truppe neozelandesi che erano effettivamente maori, però ufficialmente era la Nuova Zelanda che si muoveva. Poi c'è anche il fatto che, siccome l'hanno imparato a combattere, gli si è rivolta contro sotto certi aspetti, no? Cioè nelle colonie, e poi dopo avevano girato il mondo e diciamo questa partecipazione da parte di questi soggetti, diciamo, delle colonie, ha accelerato processi indipendentisti. Sì, sì, no, era perché hanno imparato a utilizzare le armi per il fronte di liberazione e nello stesso momento hanno acquisito più conoscenza, insomma, più coscienza.